come si vive in un paese libero. E in questa terra, in questo istante, sono felice, mi sento grande. Ho un amore sincero che amo e mi ama e mi chiede poco, ma così poco che non è uguale, o forse sì. E se non basta ancora, ho le canzoni che a poco disfo e rifaccio, abitando il tempo come conviene ad un uomo attento. Sono felice, sono così felice da chiedere perdono per questo giorno della mia felicità. Sono felice, sono così felice, chiedo che mi perdoni chi ha pagato per la mia felicità. Sono così felice da chiedere perdono per questo giorno della mia felicità. Sono felice, sono così felice, chiedo che mi perdoni chi ha pagato per la mia felicità.